quasi sempre buona la seconda. Non si può gridare alla tempesta per un po' di schiuma. Mi fa male la schiena, mi fa male la faccia. Vado a fare una doccia, cosa vuoi che faccia? Se volevi un santo lo dicevi prima. Sono stanco di sentirmi in colpa. Questa lenta talpa che ci scava e poi ci spolpa. Ah, i miei amici, tutti quanti dove sono andati? Di soppiatto se ne sono usciti. Sempre ammesso che ci siano stati. Facevo a darli, ma davvero ancor più faticoso è darsi già. Mi fa male una gamba e anche un po' la caviglia. Provo a leggere un libro, apro una bottiglia. Per conto suo e rallenta silenziosamente la sua corsa. D'altra parte la candela è spenta e non si accorcia. Oh, i confini, quelli sì, almeno tanti spazi. Tanto è vero che mi sento a pezzi a spostare mobili e divani. Oh, i specchi, non mi importa, manda gli infrantumi. Sai, i riflessi sono davvero infami. E noi due quanto siamo stati scemi a non guardarci, a perderci negli occhi, anziché a girare burattini. Vecchi, tristi e malandati. Poi i miei piedi, non sapevo anche tu le mani, ma rimani ad incollare i cocci, giusto il tempo di appassire i fiori, e dal tuo cuore toglierò gli spilli. Al silenzio sonderò gli archi.